si congedò. Dolcemente mia stanca marea, con la mia canto giù l'aria corre e la banda e il circo si vergognano di lei. Appena il dì si fece avanti, la risposta di un pubblico ci fu. Così si congedò dolcemente mia stanca marea.